dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio ostinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra, affamati di sete s'affronta la rugiada, s'affronta la rugiada. Il mattino rizoma, bussa alla città di vetro, sorride stanca, la porta glaciale incanta, scarcerando carovana migra, è l'ora d'aria, spalancate l'orizzonte, il suono del vento curva è fermo sullo spazio-tempo. Uscita Scarceranda 2023, la trovi in radio, nei banchetti di Onda Rossa in giro per la città e nei migliori info shop di movimento.